English Bit di Giulia Crivelli. Jeopardize. EU referendum. John Major and Tony Blair warn Brexit would jeopardize the unity of the UK. Il quotidiano londinese The Telegraph titolava così la cronaca degli interventi in Parlamento degli ex premier John Major, conservatore, e Tony Blair, laburista. La parola che ci interessa è jeopardize, che non ha niente a che fare con i ghepardi, anche se solo per assonanza potrebbe sembrare. Significa invece mettere in pericolo. Secondo Major e Blair, la Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sulla quale i cittadini britannici sono chiamati a esprimersi il 23 giugno, metterebbe in pericolo l'unità del UK, United Kingdom. He would never do anything to jeopardize his career, potremmo anche dire. Non farebbe mai niente per mettere in pericolo la sua carriera. Il sostantivo jeopardy significa pericolo, rischio. George was in jeopardy of going to jail for a long time if convicted. George correva il rischio di finire in prigione per molto tempo se lo arrestavano e condannavano. Double jeopardy è invece usato negli Stati Uniti nella terminologia legale e significa the fact of taking somebody to court twice for the same crime or punishing somebody twice for the same reason, portare qualcuno in tribunale due volte per lo stesso crimine o infliggere due volte una pena per la stessa ragione. Ed è una procedura, come sappiamo chi di noi segue i crimes americani, le serie crime americane, è una procedura vietata dal quinto emendamento della Costituzione americana. Come phrasal verb c'è to put in jeopardy, mettere in pericolo. Your unreasonable behavior is putting the whole show in jeopardy. Il tuo atteggiamento insensato sta mettendo a rischio l'intero concerto. Dove concerto è show, perché show è una parola molto versatile, da TV show, trasmissione televisiva, a show, concerto. Don't drink and drive. It's not just your own life you put in jeopardy if you do. Non guidare dopo aver bevuto alcolici. Se lo fai, non metti in pericolo solamente la tua vita. E infine ricordiamo, sempre con Jeopardy, che proprio così si chiama una trasmissione televisiva, un quiz che va in onda tutte le sere negli Stati Uniti dal 1964, che è un quiz di cultura generale dove appunto viene messo in pericolo, potremmo dire, la reputazione o la permanenza nello show dei partecipanti se non rispondono correttamente alle domande.